Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. No, you. Oh, real mature. How can you say that? più o meno già a metà della seconda parte del volume numero 1 di Eclettica, quella che sentite la voce di Giulio Cappardoni che compare dopo che già vi siete ascoltati dell'ottima musica, vi siete ascoltati uno sprazzo del film di questo periodo, ovvero sia The Simpsons Movie, ma ancora nessun incipit per quanto riguarda questa seconda parte. Arriverà dopo il prossimo brano. Quelli che già vi siete ascoltati sono Ghostland Observatory, una band statunitense che stiamo imparando a conoscere in vista dell'uscita a marzo del nuovo album, andando a riscoprire vecchie cose come Sad Sad City, per poi invece esserci ascoltati uno dei pezzi forti di Eclettica di questo periodo, ovvero sia Collections of Colonies of Bees, questo è il nome della formazione. Per spostarci ora invece a Seattle, la band si chiama Helvetia e nasce dalle ceneri di un altro gruppo che proveniva sempre dalla stessa città, il cui nome era Duster. Escono nel marzo 2008 con un album che io ho già a disposizione, che esce per Static Cult, album dal titolo di Acrobats, dal quale vado ad estrarre Blasting Carolina. We'll be right back. Quando egli giunse al numero 7 bis di via Marsala, il cielo d'un color morto e compatto d'alluminio era malinconico, come gli sbadigli e l'acqua delle pozzanghere, ed un po' meno dell'asfalto, forse su cui i pneumatici delle macchine e dei camion davano uno strano rumore. Forse non riuscirò a trovarla, pensò poi, perché viaggiava per la prima volta e le sue scarpe erano ancora così terribilmente goffe e lucide e quasi inesperte ancora di vie e pietre da sentirsi vagamente convinto che arrivare a destinazione e trovare casa, numero e cortile si potesse solo per un caso o una fortunata combinazione, non per altro. Questo era l'incipit di Essi pensano ad altro, di Silvio D'Arzo.